Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con circa 485 milioni di tonnellate di merci transitate lo scorso anno nei nostri porti, il mare rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana. Fare sistema è l'imperativo di tutti i provvedimenti per il settore negli ultimi anni, a partire dalla riforma dei porti e della logistica, che punta a favorire maggiore efficienza interna e competitività sul piano internazionale. Per fare questo è necessario adeguarsi a una serie di regole che riguardano anche la sicurezza. A poco più di un anno dall'entrata in vigore della normativa SOLAS, che impone la pesatura dei container prima di essere imbarcati, si intensificano così i controlli sul peso e la massa dei carichi, per limitare i rischi connessi ai trasporti marittimi, ma anche con finalità antiterroristiche. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. 500 milioni di tonnellate di merci che transitano ogni anno nei porti italiani. Basterebbe già questo numero a definire, a delineare l'importanza di questo segmento, di questo settore per la nostra economia, un settore di cui parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Umberto Masucci, vicepresidente della Federazione del Mare. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Innanzitutto, Masucci, che cos'è la Federazione del Mare? La Federazione del Mare è il cluster marittimo, portuale e logistico italiano. Ve ne fanno parte una quindicina di associazioni che rappresentano il cluster mare porti, tanto per dire, dagli armatori ai cantieri navali, dagli agenti marittimi agli ispezionieri, le autorità portuali e quant'altre. E quindi questo è un dato molto importante, perché abbiamo effettivamente la copertura di tutto il cluster marittimo portuale, indipendentemente poi dalle singole associazioni che fanno chiaramente la loro politica, certo, individuale. Ogni 5 anni la Federazione del Mare, e questo è forse uno degli elementi più importanti, commissiona al Censis una fotografia dello stato dell'arte dell'economia del mare. Ecco, a proposito di questo stato dell'arte, noi abbiamo dato un numero che è 500 milioni le tonnellate di merci in import-export che transitano nei porti italiani. Ci dia invece 3 numeri che possano servire in qualche modo a delineare l'importanza di questo segmento. Ma io partirei dagli occupati, quasi 200.000 diretti e quasi 500.000 compresi gli indiretti, oltre il 2% del PIL nazionale con 33 miliardi di euro, ma soprattutto un dato in grande aumento. Cioè, se noi prendiamo la prima fotografia del Censis, che era di 20 anni fa, e l'ultima di 2 anni fa, praticamente abbiamo avuto un più 65% in termini di PIL e un più 60% in termini occupati. Ecco, però, nonostante questi incrementi importanti sia in termini di PIL sia in termini di occupazione, dobbiamo registrare un dato negativo, e cioè la perdita di un primato. Nel 2005 eravamo il primo paese in Europa per portualità, per importanza della portualità, adesso siamo solo il terzo. Ah, certamente questo, poi le cose non capitano per caso, ma la portualità, mentre nei primi 10 anni della riforma dei porti, quella del 1994, ha avuto un rilancio anche rispetto ai porti del nord Europa, nella seconda decade, quella del 2000, ha avuto un decremento, ma anche perché effettivamente la riforma della riforma, che doveva avvenire già all'inizio degli anni 2000, ci ha messo 15 anni per vedere la luce. Ma tanto per dare un esempio, quando nel 95 nasce Gioia Tauro, nasce con la nave madre che porta 1500 contenitori e la nave feeder, quella piccola di trasbordo, ne porta 200. Ora siamo che le navi madre ne portano quasi 20.000 e i feeder 3.000, cioè il doppio di quanto era la nave madre, certo, negli anni 94-95. Questo vale per le crociere, questo vale per gli altri settori di navi merceologiche. Allora era chiaro che bisognava accelerare su una riforma dei porti, che invece ha avuto dei ritardi di 15 anni. Questo è poi il dato che poi statisticamente lei trova nei numeri dell'Unione Europea. Certo, ecco, poi questo gigantismo navale ha anche causato dei problemi e anche delle crisi, ma ritorniamo invece in Italia, visto che lei parlava di riforma, c'è una riforma che ormai praticamente è stata portata a termine, che è quella dei porti italiani e delle autorità portuali. Qual è il giudizio della Federazione del Mare? La riforma che molti hanno visto soltanto come la riduzione delle autorità portuali da 24 a 15, comunque un fatto positivo in un paese che ha tanti porti, ma che certamente non può non avere sinergie tra porti vicini, ha poi innovato profondamente sulla governance. Tanto per darle un esempio, passiamo da comitati portuali, che erano i consigli di amministrazione di oltre 20 membri, a comitati di gestione che hanno 3-4 membri oltre il presidente, e soprattutto andiamo su una parte che ancora deve essere completamente implementata, ma che è tutto quella delle semplificazioni, dello sportello unico doganale, insomma di accentrare e sburocratizzare i nostri porti, come lo sono già in tutto in parte i porti del Nord Europa, ma anche porti concorrenti del Mediterraneo. Quindi, e poi soprattutto si è riusciti a dare abbastanza rapidamente una governance, cioè dei presidenti ai porti. Noi abbiamo attraversato gli ultimi 2-3 anni prima dell'approvazione della nuova legge del 2016 con 2/3 dei porti commissariati. Oggi certo. 14 porti su 15 hanno un presidente, siamo in attesa del 15°. A proposito di Europa e di Mediterraneo, c'è un tema importante in questo momento per l'economia italiana, che è quello della internazionalizzazione delle imprese. Le imprese del cluster marittimo sono pronte ad affrontare questo tema? Ma guardi, io prima di tutto dico, noi dobbiamo guardare alla Cina, dobbiamo, come 20 anni fa guardavamo all'America, però dobbiamo guardare anche a quello che noi abbiamo intorno. Il Mediterraneo conta molto e sicuramente nel Mediterraneo, dove noi abbiamo delle criticità con i problemi chiaramente migratori, che sicuramente sono dei problemi che anche sulla navigazione a volte influiscono, però poi abbiamo anche delle opportunità. Io faccio sempre l'esempio che noi abbiamo Shanghai a 21 giorni di navigazione e Tunisi a 15 ore di navigazione. Abbiamo un'Africa che secondo la Population Division delle Nazioni Unite nel 2050 raddoppierà la sua popolazione, passando da 1,250 miliardi a, secondo gli scenari, 2,2 miliardi, 2,5 miliardi, mentre l'Asia cresce molto meno, a 4,3 miliardi a 5,2 miliardi, e l'Europa rimane addirittura in decremento, da 700 milioni passerà a 6,50. Ora, se questi dati più o meno si realizzeranno, noi dobbiamo sempre più internazionalizzarci, e credo che le aziende italiane progressivamente lo stiano facendo. Noi come cluster cerchiamo di aiutarle, abbiamo fatto missioni all'estero, in Marocco, a Tanger Medi, in Spagna, in Grecia, ora stiamo preparando una grande missione a Hong Kong e Shenzhen a fine novembre. Perché Hong Kong e Shenzhen? Hong Kong perché è certamente rimasta la patria anche finanziaria, anche dopo che è entrata completamente nella Cina, nella Repubblica della Cina, ma Shenzhen perché è una special economic area, è un'area economica speciale che io ho visitato 25 anni fa quando era un villaggio di pescatori, oggi produce un quarto del PIL italiano, insomma è una città di 16 milioni di abitanti. Allora questi ci possono dare anche delle opportunità di contatti, ma anche di vedere quello che noi oggi in Italia stiamo facendo. Nel decreto sud è stato inserito, è passato un po' sotto silenzio, tutto il tema delle ZES, delle zone economiche speciali, ma quello che è più importante per noi del cluster è che è stato riconosciuto un ruolo fondamentale ai porti. Il presidente del comitato che coordinerà le ZES, oggi ce ne sono già due, Napoli-Salerno secondo una legge regionale campana e una Gioia Tauro secondo una legge regionale calabrese, che però ora devono avere decreti attuativi dopo la legge e quant'altro. Ecco, il presidente viene stabilito che sia il presidente del porto, cioè riconoscendo come, qua mi sembra che ancora di condividere quello che attualmente il legislatore sta facendo, di dare una centralità al porto, alla logistica, al settore marittimo, che poi può essere al servizio del nostro paese, che ricordo sempre è il 10° esportatore del mondo. Quindi certo, noi da questo punto di vista